poi te ne porto uno scarafaggione. No, esatto. Ho ben presente il maialone perché ogni volta che mi fermo agli autogrill vado lì a schiacciarlo, no? I topi ballano. Eccola là, quando il gatto non c'è, il gatto befera, chiamiamolo così. Qua ti volevo, cara mia, però ti posso dire... E qua cade l'asino. No, non sei un asinello, dai. Sono anche uno sgranocchiatore. Mi piace, Antonio. Un topolone. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Può fare, può farissimo! E tardi! Questa sì che buffa! Perché mai dovrebbe essere tardi per un coniglio? Mi scusi, signore! Ma che? Non aspettano che me! In ritardo sono già! Non mi posso trattenere! Signor coniglio, aspetti! No! È tardi, sai! Io sono già in mezzo in guai! È tardi e chissà se il ritardo di tanti sindaci italiani è un ritardo giustificato come a scuola, oppure se hanno fatto tardi perché sono, tra virgolette, un po' conigli anche loro. In realtà forse sono un po' furbetti, siamo in piena campagna elettorale e hanno preferito così allontanare il momento in cui dovranno dire ai loro cittadini quanto devono pagare di TASI, la tassa sui servizi indivisibili, anche appunto per scopi elettorali. Fatto sta che proprio l'altro ieri è stata comunicata la decisione ai comuni ritardatari che non libereranno l'aliquota entro il 23 maggio, quindi venerdì prossimo, vedranno una proroga della scadenza dell'acconto della TASI. Non dovrà più essere versata entro il 16 giugno, ma viene rimandata a settembre. Attenzione però, perché laddove i sindaci non hanno fatto tardi, si paga e come? E proprio entro il 16 giugno. E toccherà ai contribuenti di quasi 1000 comuni italiani. Oggi a Cuore Denari torniamo, speriamo, non credo che ce la faremo, anche perché la situazione è continuamente in evoluzione, a chiarire tutti i dubbi sulla TASI. Chi paga, come, quando e quanto si paga? Iniziate allora a chiamare all'800 24 00 24. Non fate tardi, no. È il caso di dire. A proposito, noi lo diciamo spesso, fanno tardi non solamente i sindaci, e questo un periodo dell'anno, una ragione che ci può far pensare che ormai è tardi è... la famigerata prova costume, per la quale però non ci sono rinvii, proroghe. È un appuntamento che riguarda in fondo anche chi il costume per tante ragioni diverse non lo indosserà, perché adesso che indosseremo gli abiti estivi ci scopriremo un po' e si metteranno in evidenza i chili in più, i rotolini, e così volenti o nolenti ci tocca fare i conti con la bilancia e con lo specchio. Se li state facendo anche voi, chiamatemi 800 24 00 24, e ci auguriamo chiamerete in tanti, perché non vi faremo le solite raccomandazioni, cioè mangiare bene, muovervi di più. Questi sono i fondamentali, da qui non si scappa, i concetti li abbiamo metabolizzati, ma oggi vi diremo cosa fare per ottenere in tempi rapidi risultati molto soddisfacenti. Risveglieremo il metabolismo, ci sono delle accortezze per aiutarlo a scrollarsi di dosso il torpore invernale e quindi farlo bruciare di più, e ci sono dei modi per far rendere al massimo l'esercizio fisico riducendo anche i tempi. Ne parleremo a partire dalle ore 12 insieme al dottor Gualerzi, quindi vi aspetto. È aumentata la TASI, TAIRI, tutto, IOC, come si chiama, IUC? Non è vero che abbiamo tassato la casa, abbiamo... Cioè, come la TASI? TASI? No. Come no, la TASI? Come? L'innalzamento della TASI? Ma lei... La tassa sui rifiuti, la TARI, mi pare si chiama, l'ultimo nome, se no... In Veneto TASI vuol dire TACI. TASI, si finisce RS, ora poi si fa T, TATI, TAVI, TAZI, TAFAZI, Cristiano Dell'Oste, il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo fatto un mix di voci tra le più conosciute e di commenti appunto sulla TASI. Certo che non possiamo definirlo in maniera diversa che un altro pasticcio fiscale. Siamo autorizzati a dirlo? Ma direi di sì, perché purtroppo al terzo anno, 2012 abbiamo avuto il debutto dell'IMU, 2013 questo balletto sulla eliminazione, no sospensione, no superamento dell'IMU sulla prima casa. 2014 arriva una nuova imposta, la TASI, che poi ha molte analogie con l'IMU, ma non è esattamente la stessa cosa, e quindi questo complica la vita non poco ai contribuenti, perché su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale i due tributi coesistono, quindi è un bel pasticcio, anche perché di fondo c'è il problema di una valutazione politica che è stata quella di aver paura in qualche modo di dire ai cittadini che le imposte sulla prima casa si dovevano continuare a pagare. 800 24 00 24, mano alla cornetta per tutti i nostri contribuenti all'ascolto. Naturalmente potete scrivere al 349 238 6666, potete come sempre seguirci sui nostri social. Facebook e Twitter, ma ricordiamo anche che oggi il Sole 24 Ore in edicola dedica uno speciale al tema di cui si sta occupando e si occuperà Cuore Denari, si chiama proprio le nuove tasse sulla casa e fa il punto su tutto a partire proprio dalla TASI. Eh sì, è così, perché la regola attualmente in vigore stabilisce che se il comune delibera le aliquote e le detrazioni TASI entro il 23 di maggio, cioè entro venerdì di questa settimana, e le pubblica sul sito delle finanze entro il 31 di maggio, allora si deve andare a pagare entro il 16 di giugno. Sì. E allora sul giornale di oggi abbiamo la lista di tutti i comuni che ad oggi hanno già deliberato la TASI, in modo da capire se effettivamente si deve pagare o meno, perché questo è il primo discrimine. Poi se il comune non ha deliberato avrà tempo di farlo fino alla fine di luglio, e poi vedremo bene se si dovrà pagare, come pare, a dicembre per la prima casa e a settembre per tutti gli altri fabbricati, o se il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe tenersi venerdì, stabilirà delle scadenze ancora diverse. Però diciamo l'importante è capire chi deve pagare adesso, e quello lo spieghiamo sul giornale. A proposito dell'ennesima confusione generata anche dalle possibili date, ti faccio sentire quello che ha detto questa mattina al microfono appunto di Alessandro Milan Piero Fassino, che è il presidente dell'ANCI. Quindi quelli che hanno approvato le aliquote pagheranno. E tra questi ci sono tutte le grandi città, da Torino a Milano a Bologna a Venezia, che tutte città che non andavano al lotto, quindi il Consiglio Comunale ha potuto riunirsi e deliberare. E quelli, diciamo, i contribuenti delle città che hanno deliberato pagheranno, come la legge già prevedeva, regolarmente il 16 giugno. I cittadini dei comuni in cui non si sono deliberate le aliquote pagheranno il 16 ottobre, con aliquote che i comuni devono determinare entro il 31 luglio, tempo in cui si sono insediati i nuovi consigli. Lei mi ha detto, scusi, la data 16 ottobre, cioè perché, sì. perché si parla di settembre, invece è stato deciso quindi al 16 ottobre. Quello che è stato convenuto con il Ministero dell'Economia il 16 ottobre, perché il 16 settembre era molto ravvicinato rispetto alla scadenza del 31 luglio come data ultima per la determinazione dell'aliquote. E quindi è spuntata adesso anche la data del 16 ottobre, l'abbiamo appresa proprio da poco, Cristiano. Beh, diciamo che ci ha dato una notizia, perché il comunicato stampa che è stato diramato dal Ministero dell'Economia non più tardi di 2 giorni fa dice che la prima rata è prorogata da giugno a settembre, peraltro non dice la data, dice da giugno a settembre. Esatto, noi abbiamo ipotizzato il 16 settembre facendo il parallelo con il 16 giugno, diciamo. No? Esatto, e poi l'anno scorso per un certo periodo, quando era stata soltanto congelata la prima rata dell'IMU, incombeva questo termine del 16 settembre. Se fosse ottobre, diciamo che sarebbe anche un pochino più semplice per i CAF e in generale i professionisti, che non avrebbero, diciamo, il sovraccarico di lavoro al ritorno dalle ferie, quindi non sarebbe così irrazionale in un quadro dove però di cose irrazionali, se vogliamo trovarne, ce ne sono tantissime. A proposito di cose irrazionali, non sarebbe stato più semplice rimandare tutto e per tutti a settembre o ottobre, invece che fare tutto a scaglione, un po' a giugno e un po' a settembre, forse ottobre? Ma sicuramente sì. Qual è il problema che ha portato a fare questo rinvio scaglionato? È che il governo ha di fatto accolto la richiesta dell'ANCI, che è l'associazione dei comuni, che diceva: certo, se ci fate rinviare tutto a settembre, ottobre o dicembre, come come lasciamo accese le luci dei lampioni? Esatto, noi abbiamo un problema di liquidità, ci mancano i soldi. Allora da lì l'idea di dire: se il comune ha già deciso, pagate. Certamente è una bella complicazione, perché intanto i comuni possono deliberare arrivare ancora fino a venerdì, abbiamo detto, perciò la situazione di oggi non è una situazione stabile. Ma devono anche pubblicare la decisione sul sito del Ministero delle Finanze. Devono pubblicare la decisione sul sito delle Finanze, ma pensiamo a tutti quelli che hanno una seconda casa in un comune diverso da quello in cui risiedono, magari anche distante centinaia di chilometri. Devono andarsi a fare la ricerca su internet, il sito delle Finanze non è facilissimo da trovare e quindi in qualche modo il contribuente non è così facilitato. Certo. Quindi questo è Nicoletta, un aspetto la buona non notizia secondario. È che io e te a Milano al momento a giugno non abbiamo nessuna scadenza perché Pisapia non ha deliberato un bel niente. Cristiano, me lo confermi? Non è che cambia sì, idea. Sì, esattamente. No, no, al momento non hanno deliberato e non dovrebbero farlo insomma entro la data. Tra l'altro quindi questo... io e Nicoletta che abbiamo la proprietà di una abitazione principale paghiamo tutto a dicembre. Perché è l'abitazione principale o mi sbaglio? Ho capito al male. Momento è così, perché la legge di stabilità nella versione modificata dalle ultime norme stabilisce che sull'abitazione principale la TASI si paga tutta a dicembre. Non è escluso che vogliono come dire, da una, qui a venerdì si decida quantomeno di allineare la scadenza tra prime e seconde case, perché ad oggi sembrerebbe che ci siano scadenze diverse, che non è facilissimo da gestire. Allora, guarda che difficile pagare le tasse. Io veramente non ci capisco. Il duro lavoro del contribuente, no? C'è anche un articolo oggi di Padula sul Sole proprio che... Sì, esatto, soprattutto perché queste sono imposte in cui nella maggior parte dei casi i contribuenti tendono a farsi i calcoli da soli. Se noi pensiamo che l'altro grande tributo comunale è l'addizionale comunale all'IRPEF, beh, l'addizionale comunale all'IRPEF viene generalmente trattenuta dal datore di lavoro o calcolata dal commercialista, quindi lì di problemi non ce n'è. Il guaio è che TASI e IMU e anche TARI, quella sui rifiuti, sono imposte che il cittadino gestisce da solo e questo imporrebbe maggiore semplificazione, non maggiore complicazione. Per chi comunque volesse cimentarsi in questo calcolo, a prescindere dalle scadenze che sono ancora piuttosto ballerine, chiediamo aiuto a Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti, che salutiamo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Che vi racconto questo episodio, già stamattina non erano neanche le 8, io e lui eravamo al telefono. Immaginate un po' come è messa la mia vita e anche la sua, Mione, non è che stia molto meglio, insomma. Allora, tra l'altro adesso, a parte tutti gli scherzi, possiamo anche cominciare, Nicoletta, se ritieni, a sentire i nostri ascoltatori e a leggere qualche messaggio, perché attraverso i casi concreti forse capiamo un po' di più. Andrei, farei un saltino a Vicenza. Andiamo a Vicenza subito. Per Luciano, poi leggiamo qualche sms. Volentieri. E torniamo a Milano con Lorenzo. Benissimo. Ti piace? Allora, cominciamo con Vicenza. Luciano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta. Sì. Io volevo dire della TASI, sì, no? Sì. Dobbiamo sempre andare da un altro commercialista a farsela fare, o no? Mion, qua possiamo anche andare da un geometra fiscalista volendo, no? A farsi fare il calcolo, sì. Però Luciano vorrebbe sapere poi come si paga, perché... Sicuramente, fatto un po' come avete fatto molto bene, come ha fatto Cristiano, questo focus sulle varie scadenze che comunque... rimangono un nodo sicuramente da sbrogliare e da sbrogliare probabilmente dopo venerdì con il Consiglio dei Ministri, per fare un po', passare un po' dalle scadenze a quelle che invece è la normativa, che perlomeno questa è stabile. Diciamo che l'aliquota base della TASI attualmente è dell'1 per mille, che può essere ridotta con una norma regolamentare del comune, può essere alzata fino al 2,5 per mille, ma la somma di IMU più TASI non potrà superare comunque quello della precedente IMU, quindi del 10,6 per mille. È stato inserito un ulteriore, come dire, elemento, la cosiddetta super TASI, dal DL16, dal decreto legge 16, della possibilità di aumentare la TASI di un ulteriore 0,8 per mille, portando di fatto la somma dei due elementi della TASI dal 2,5 al 3,3 per mille. Per fare tutti questi calcoli combinati con tutti i vari regolamenti, sicuramente, come diceva l'ascoltatore, dovrà recarsi, è presumibile che si debba recare da un professionista abilitato, non tanto da un punto di vista normativo, da un punto di vista della conoscenza, perché il dedalo è assai complesso. Ecco, ma ammettendo appunto che l'aliquota, una questione di aliquote. Ma ecco, ammettendo che l'aliquota stabilita dal comune sia chiara, no? Qual è il calcolo che devo fare? Da quali elementi devo devo partire, partiamo come sempre tradizionalmente dalla rendita catastale dell'abitazione? Partiamo sempre dalla rendita catastale, dobbiamo generare quindi la base imponibile, la rendita catastale che è desumibile dalla visura catastale o dall'atto di compravendita, sì. La dovremo aumentare, così come è stato previsto a partire dal gennaio del 97, di un 5%, e da qui dovremmo andarla a moltiplicare per il moltiplicatore fisso che era già stato previsto per l'IMU, che nel caso dell'abitazione è 160. Mm-hmm. Quindi un esempio molto semplice per gli ascoltatori potrebbe essere quello di una rendita da 1000 euro aumentata di un 5% a 1050 euro e moltiplicata successivamente per 160 ci darebbe 168.000 euro di base imponibile. Ammettendo un'aliquota stabilito un 1 per 1000 con 168 euro per tutto l'anno, il cittadino sarebbe a posto. Ammettendo naturalmente che il caso sia così semplice con una rendita di 1000. Che non lo è, perché dentro si inseriscono una serie di delibere, come abbiamo visto ad esempio proprio perché abbiamo ascoltato Fassino. Torino è uno di quei comuni che ha delle ha deliberato l'aliquota TASI al massimo del 3,3 utilizzando questo, diciamo, questo scalino dello 0,8 per inserire, così come previsto dalla normativa, delle detrazioni per le abitazioni principali. Nel caso di Torino sono state previste delle detrazioni di 110 euro a seconda delle fasce di rendita e 110 euro per l'abitazione e 30 euro per ogni figlio residente nell'abitazione. Le combinazioni sono moltissime, se pensiamo che con l'IMU le combinazioni erano state calcolate a 104.000, se sommiamo quelle della TASI io credo che superiamo ben oltre le 200.000 combinazioni. Cristiano. Ginepraio. Sì, perché questo che sta dicendo Mione è molto importante. Con l'IMU noi avevamo sull'abitazione principale la vecchia detrazione di 200 euro per tutti, aumentata di 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni. Con la TASI la legge dice che il comune può fare come vuole, può mettere le detrazioni come meglio crede. Questo è un fattore di complicazione delle possibili delibere locali enorme. Finora pochi comuni hanno deliberato, l'abbiamo detto, un migliaio su 8.000, però stiamo vedendo che ci sono comuni che non hanno previsto alcun tipo di detrazione, perché fino al 2,5 per mille... Ma magari hanno messo un'aliquota bassa. Fino al 2,5 per mille il comune non è obbligato, quindi 2,5 non è così bassa, ma il comune non è tenuto per legge a mettere detrazioni. Poi ci sono comuni che l'hanno fatta in base alla rendita catastale, altri che l'hanno fatta in base al reddito ISEE del proprietario, altri ancora che la fanno in base all'imponibile del proprietario. Quindi non c'è niente da fare, non esiste una disciplina generale alla quale far riferimento, dobbiamo per forza chiedere spiegazioni al nostro sindaco. Bisogna andare a vedere la delibera locale. Poi alcune delibere sono anche abbastanza semplici. Da questo punto di vista, quello che diceva l'ascoltatore prima, Luciano di Vicenza, sì, è un problema perché non tutti riusciranno a farsi il calcolo da soli. Chi riuscisse a farselo poi potrebbe anche dire pago tramite il mio servizio di home banking con un modello F24 e se la cava tutto sommato con pochi danni. Se il sindaco mandasse qualche bollettino a casa invece preciso sarebbe meglio, ma è molto difficile anche per un'amministrazione fare un servizio di questo tipo. Avevamo la legge che addirittura lo prevedeva come buona intenzione, poi vediamo che è impossibile nella prassi per bussano la maggior parte alla porta gli ascoltatori. Molti anche messaggi dai nostri ascoltatori che sottolineano un po' il problema anche dei costi dei commercialisti. Un ascoltatore ci dice: Paolo, il costo del caffè del professionista non è una tassa anche quella? Vergognosi come sempre. Altri ascoltatori che dicono: ma perché non possiamo pagare le tasse alla fine del mese così abbiamo lo stipendio e queste tasse risultano meno pesanti? Lorenzo, avevamo con lui un appuntamento, eccolo qua in linea con noi, benvenuto. Salve, buongiorno. Senta, io chiamavo per la mia domanda originaria riguardava, nel caso di un comune che abbia già deliberato l'aliquota da richiedere e per un immobile che attualmente ha diritto a una riduzione sull'IMU in quanto non... Lorenzo, visto che lei è di Milano e noi non abbiamo qua questa situazione, ci può magari essere un po' più preciso sul comune di riferimento che magari Cristiano la conosce? Sì, un comune dell'Emilia dove il Senato ha deliberato, quindi il Consiglio Comunale ha già deliberato al riguardo. Perfetto. Ma quello che io chiedevo è nel caso delle tasse, si ha comunque diritto alla riduzione nel caso in cui l'immobile non sia agibile o va pagata comunque per intero? Ed era... Allora, Lorenzo, facciamo riflettere Mirko Mion e Cristiano Dell'Oste, e così mi prendo un po' di pausa con i mercati. Andiamo. Andiamo. cuore e denari. Ci vuole un fisico bestiale, ma c'è per resistere agli urti della vita. E dopo aver ricevuto tante informazioni utili sulla TASI, importi, tempi, aliquote, e ne parleremo naturalmente ancora nel corso della trasmissione, noi continueremo a fare i conti non con gli euro che dobbiamo versare, ma con i chili che dobbiamo eliminare. Pensate che secondo un'analisi della Coldiretti la metà degli italiani ha qualche chilo di troppo, uno su tre è sovrappeso e uno su dieci addirittura obeso. Gli uomini in media sono più grassi delle donne. Non quelli che abbiamo noi stamattina. Sì, però insomma il 55,5% di loro è fuori forma e noi invece siamo al 37%, e questo insomma è quello che emerge dall'indagine della Coldiretti. Ma ci sono anche buone notizie, e come donna di cuore mi piace darle. Siamo sovrappeso, ma sappiamo di esserlo e cerchiamo di porre rimedio. Un italiano su cinque si è messo a dieta in vista delle prime giornate di mare e uno su quattro ha intenzione di farla al più presto. Allora, se siete tra questi, fatevi aiutare da noi a ottimizzare i vostri sforzi senza tanta fatica. Premiamo l'impegno e vi suggeriamo non scorciatoie, quelle non vanno bene, ma direi corsie privilegiate per arrivare in forma alla prova costume. 800 24 00 24, intanto che parliamo di TASI, prenotatevi per la prova costume. Ma continuate anche a prenotare i vostri interventi per chiedere chiarimenti sulla TASI, e ci aveva divertito molto, Nicoletta se ne era accorta, sì, appunto di questo messaggio di Tina, che è emblematico, devo dire che rappresenta lei perfettamente il sentimento di molti altri contribuenti frustrati in questo momento. Cosa dice Tina? Allora Tina dice: spiegate bene se l'aliquota è unica per abitazione principale e altri immobili o se c'è differenza. Io non ho ancora capito, eppure non sono stupida, e devo dire che non l'avevo capito neanch'io, quindi vuol dire che non siamo stupide in due. Allora facciamo degli esempi molto pratici. Cristiano, adesso noi abitiamo a Milano, comune che non ha deliberato, delibererà entro il 31 luglio, per cui io che ho solo l'abitazione principale deduco, allo stato dei fatti, che pagherò tutto, saldo e acconto, quindi in un'unica soluzione a dicembre, e questa è una, come dire, situazione abbastanza semplice. La mia non è l'abitazione principale, il sindaco delibera entro il 31 luglio, che cosa succede? Pagherò in due soluzioni e soprattutto l'aliquota, la mia aliquota, è uguale a quella di Roma, a quella di Napoli, a quella di Vigevano, non so che cosa? Certo, allora bisogna, diciamo, dividiamo le due questioni, altrimenti ci complichiamo troppo la vita. Nel senso, prima vediamo cosa si paga, poi vediamo quando. Allora, sull'abitazione principale, la cosiddetta prima casa, si paga soltanto la TASI, a meno che non sia una di quelle poche case che ricadono nelle categorie di pregio A1, A8 e A9 dal punto di vista catastale. Manteniamo la nostra attenzione sull'ambito ordinario, diciamo. Esatto, diciamo solo che se la casa fosse una casa di pregio, lì si paga IMU e TASI insieme. Okay. Di norma, su tutte le altre abitazioni, che sono il 99,9%, si paga soltanto la TASI se sono prima casa. Poi, su tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, quindi case sfitte, case affittate, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili, anche comprese anche le aree edificabili, garage ovviamente, certo, su questi si va a pagare normalmente l'IMU con le regole dell'anno scorso, che abbiamo già detto mille volte. Esatto, vabbè, okay, quelle non cambiano, e in più si paga anche la TASI, i due tributi si sommano, a meno che il comune non decida su questi fabbricati o su alcuni soltanto di questi di non far pagare la TASI. E qui rispondiamo alla nostra ascoltatrice, perché lei diceva: ma l'aliquota TASI è uguale su tutti i fabbricati o no? La risposta è: dipende da quello che decide il comune, nel senso che secondo la legge c'è un'aliquota dell'1 per 1000 spalmata su tutto, abitazioni principali, seconde case, aree edificabili e così via. Poi il comune può differenziarla, abolirla su alcuni immobili, alzarla su altri, prevedere delle detrazioni sulla prima casa e così via. Quindi il discorso è molto complicato. Invece per le scadenze, velocissimamente, per l'IMU restano 16 giugno e 16 dicembre. Per la TASI, allora, se il comune non ha deliberato, abbiamo ad oggi 16 dicembre per la prima casa, settembre o, secondo quanto diceva Fassino, ottobre per gli altri fabbricati. È tutto ciò che è diverso dall'abitazione principale. Esatto. Se invece il comune ha deliberato, a questo punto tutti i fabbricati, prima casa e non prima casa, vanno al 16 giugno per quanto riguarda la TASI prima rata, 16 dicembre, certo. Saldo. Quindi, così, tanto per dare un immediato suggerimento pratico, la prima cosa che dobbiamo fare è capire se il nostro primo cittadino ha deliberato o meno. Dopodiché, se non ha deliberato, possiamo prenderci un attimo di calma, un esatto. attimo appunto di tranquillità e verificare poi quanto dobbiamo pagare. Ma la prima cosa da fare è questa. La prima, come dire, verifica che possiamo fare, dove andare a cercare questa informazione? Sul sito dell'amministrazione comunale o sul sito del Ministero delle Finanze, laddove c'è l'elenco di tutti i comuni che hanno deliberato, perché devono obbligatoriamente pubblicare questa decisione? Allora, il valore legale deriva dalla pubblicazione sul sito delle finanze. Infatti. Il punto è che la legge ci dice che questa pubblicazione va fatta entro il 31 maggio. Quindi, se vogliamo fare una verifica oggi, forse è più pratico farla al comune. Altrimenti, aspettiamo qualche giorno e il 31 maggio o i primissimi giorni di giugno verifichiamo sul certo. sito delle finanze. E se scopriamo che il comune ha deliberato, parte la corsa contro il tempo per fare il calcolo e pagare entro il 16 giugno. Esatto. Tra l'altro, ovviamente tu dirai, vado su finanze.it e trovo subito lì il mio link. Un bel simulatore che ci faccia il calcolo, un bel niente. Bisogna fare un percorso abbastanza tortuoso, si passa dalla sezione fiscalità locale e poi si entra nella sezione IUC, che la IUC è la sigla che unisce TARI, TASI, tutte le tasse sulla casa. Esatto, e poi da lì ci si arriva. Comunque, se si va sul sito del Sole 24 Ore c'è anche la via breve, nel senso che almeno il link abbiamo. Allora pubblichiamo questa magari su Facebook. Posso leggervi un messaggio? Perché vorrei sentire proprio il vostro parere. Un ascoltatore ci scrive, capisco che il sindaco possa fare ciò che vuole, ma a parità di condizioni si avranno cittadini più fortunati o cittadini sfortunati. Ma la Costituzione non prevede l'uguaglianza dei cittadini? Prevede anche, come dire, c'è anche uno statuto del contribuente, ma che viene puntualmente la domanda violato. È anche la progressività. Eccolo là, cioè la vucina dell'oltretomba di Mirko Mione. Anzi, facciamolo commentare questa questione sollevata dall'ascoltatore. Il commento, allora, io la mia posizione molto personale è quella che ci sia un eccesso di delega nell'ambito della legiferazione fiscale data ai comuni. Infatti qui, come diceva giustamente Cristiano, le possibilità sono tantissime, bisogna andare ad analizzare caso per caso, comune per comune. Ad esempio, rispondendo al signore di Vicenza, nel frattempo sono andato a prendere proprio la delibera di Vicenza, abbiamo tre tipologie di TASI diverse, lo 0 fino alle rendite a 400 euro, il 2,8 da 401 a 1000 euro di rendita dell'immobile, con una detrazione base di 110 euro e 40 euro per figlio. Terza fascia, oltre i 1000 euro di rendita, la TASI sarà il 3,3 per 1000, senza detrazione base e 40 euro per figlio, quindi prendendo l'esempio dell'ascoltatore di Vicenza. Quindi effettivamente le complicazioni sono tantissime. E quindi adesso lei aggiunge anche in questo mosaico il tema della differente rendita catastale, perché in quel caso molti comuni possono avere anche applicato aliquote diverse a seconda della rendita della propria abitazione. Perché qui il tentativo del comune è quello di riuscire a sottrarre all'obbligo del pagamento tutte quelle abitazioni che di fatto erano esentate attraverso la detrazione strutturale dei 200 euro, che permetteva quindi fino ad una certa soglia di rendita di non andare a pagare, l'IMU. Andiamo ad altri, sì, chiarissimo Mion, chi peschiamo adesso? Pippo da Catania. Pippo, buongiorno. Però vuole intervenire anche Cristiano prima di Pippo? Sì, giusto perché c'era rimasta in sospeso la domanda di Lorenzo da Milano. Poveretto, esatto. Quella sulla, diciamo, sulla immobile casa inagibile. Esentato, sì, teoricamente esentato, no? Esatto. L'imposizione fiscale. Allora, la legge per quanto riguarda la TASI non ripropone la riduzione del 50% della base imponibile per un immobile inagibile, quindi qui di base non ci sono sconti se l'immobile è inagibile da un punto di vista TASI. Se però fosse una seconda casa, l'IMU la paga comunque al 50%. Però, anche in questo caso, autonomia comunale, il comune potrebbe decidere di allineare le due discipline e dimezzare anche la TASI. Quindi deve andarsi a vedere la delibera del suo comune e ricordarsi che comunque per l'IMU, se dovuta su quel tipo di immobile, non perde la riduzione alla metà della base imponibile. Pippo, buongiorno, dalla bella Catania. Sì, vado con la domanda. Certo. Io ho una seconda casa affittata a studenti, sì. Ognuno con il suo contratto. Lì veramente altro che mosaico, Pippo. Allora, magari Mirko Mion, possiamo intanto dare le regole di base. Non ho solo sentito l'ascoltatore. Adesso glielo spiego. Pippo ha un'abitazione, una seconda casa che affitta a studenti, probabilmente universitari, ognuno con il proprio contratto. E questa me la voglio vedere tutta, perché teoricamente un proprietario con l'affittuario divide, no, la TASI, che viene pagata in percentuale tra il 10 e il 30%, non mi ricordo di che cosa? Tra il 10 e il 30% dell'imposta calcolata in base all'aliquota prevista per la seconda abitazione. Quindi diciamo che se il proprietario pagasse 100, l'affittuario dovrà pagare tra 10 e 30. Tra il 10 e il 30, anche qui a seconda. Intanto guardavo proprio il comune di Catania, non ha deliberato nulla, se no ci potevamo aiutare. Tendenzialmente i comuni stanno deliberando una percentuale a carico dell'affittuario del 10%. Probabilmente, questa è una mia chiave di lettura, proprio per portare questi importi al di sotto della soglia minima del pagamento dei 12 euro. Come fa Pippo a suddividere con tutti i suoi studenti queste cifre così che saranno già basse? Cosa fa pagare? 5 euro ciascuno? Diciamo che l'obbligazione tributaria dovrebbe essere unica, poi ognuno dovrebbe contribuire in modo frazionato, e probabilmente in questo caso particolare andrebbero tutti al di sotto dei 12 euro e quindi non sarebbero poi tenuti al pagamento. Certo. Pagherà soltanto quindi la quota di TASI il signor di Catania in base a questo range che a lui competerà tra il 70 e il 90%. Insomma, è Pippo paga. Però può prendersi un po' di tempo con calma, perché il sindaco di Catania non ha ancora deliberato nulla. Tutti attenti al traffico. Guardate, abbiamo così tanto mal di testa che prendiamoci un attimo di pausa, perché è meglio. A tra poco. Cuore e denari. Trise, Tari e Tasi, che tra sembrano delle malattie. Chi li ha scelti i nomi? Luciano Onder? Che cosa è la trise? È vero che se non curata può degenerare in tasi? Questo continuo acuirsi della trise taritasi può provocare l'ingrossamento della prostata, la famosa prostata tasi. Ragione Crozza, con tutte queste sigle le idee si confondono facilmente. Noi oggi stiamo cercando per quanto possibile di fare un po' di chiarezza, soprattutto sulla TASI. Ne è nato nelle ultime ore un vene proprio ginepraio, perché c'è stato questo rinvio da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze lunedì a settembre, che potrebbe diventare ottobre. Insomma, stiamo cercando di capire chi paga e quanto paga a giugno, perché questa è la scadenza, diciamo, dietro l'angolo. Nicoletta. Andiamo a Monza volentieri, perché dove c'è Walter. Buongiorno Walter. Vieni qua. Walter. Allora, chiama la moglie o chiama un figlio o chiama il suo cane? Chi sta chiamando, Walter? Pronto? Buongiorno. L'abbiamo pescata in flagranza di reato. Walter. No, sto spostando la mia suocera poverina che devo aiutarla. Va bene. Ecco. Ci racconti tutto allora, qual è la sua domanda? Sì. Io sono proprietario e mia moglie, diciamo usufruttuari, di un box a Milano, mentre mio figlio è nudo proprietario. Ecco. Il mio figlio, diciamo che lo utilizza lui però, perché paga anche la spazzatura, eccetera, può sapere la TASI chi deve pagarla? Mamma mia Walter, certo che noi così immaginiamo sempre delle situazioni lineari, si ha una prima casa o una seconda, al massimo un garage, al limite un terreno, ma invece qua sentiamo che le situazioni sono molto complesse. Cristiano, ti cimenti tu nella risposta a Walter, perché io chiaramente non ci penso minimamente di lanciarmi. Mion se la ride dall'altra parte. Mion anche ride. No, in questo caso la questione è abbastanza semplice, nel senso che la TASI va a carico dell'usufruttuario, che è titolare del diritto reale. È anche normale che paghi la parte, diciamo, dei rifiuti il figlio, perché è l'occupante in qualche modo, quindi da questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi. Certo. Lo stavamo guardando adesso con Nicoletta, un ascoltatore su Twitter, la questione di chi, e sono molti gli italiani che sono all'estero per ragioni di lavoro e hanno delle proprietà in Italia, e anche qua devono in qualche maniera contattare i sindaci di riferimento, Mion, per disciplinare bene la situazione fiscale delle loro proprietà immobiliari in Italia? non possono disinteressarsi ovviamente di queste situazioni. Sì, anche perché di nuovo qui la questione è legata a quelle che sono il concetto di abitazione principale, e quindi andare a verificare se tutte le abitazioni che erano state in qualche modo assimilabili nella formulazione dell'IMU, quindi case di proprietà di residenti all'estero piuttosto che case possedute da anziani o disabili ricoverati in istituto di cura, vengono nuovamente assimilate alle abitazioni principali anche per la TASI. Si fermi lì, quindi perché forse abbiamo verificare si fermi lì perché abbiamo forse bruciato la domanda di un ascoltatore. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno signora Deborah. Sì. Sì. Ci dica. Sì, dunque le dico, io seguo anche Radio 24 anche dalla Svizzera. E vivo in Svizzera da tantissimi anni e effettivamente sia sui giornali, tutti i media, nessuno ne parla. Ci sono migliaia di italiani che hanno proprietà in Italia. Era già una grandissima complicazione con l'IMU, adesso diventa veramente una cosa irraggiungibile. In che cosa... Lei ce l'ha a Bologna, credo... Antonio, la proprietà a cui si riferisce? No, sono a Bologna, ma la proprietà è in Sicilia, dalle parti di Taormina. Esatto, allora diciamo che la lamentela è un po' più tollerabile in questo caso. Beh, Antonio, allora bisogna tenersi informati, d'altronde, come dire, con il fisco non bisogna mai abbassare la guardia. Abbiamo c'è il sole 24 ore apposta, no Cristiano? Non resta che comprarlo. Purtroppo in Sicilia, o per fortuna sì. Ecco, in Sicilia quanti sindaci sono stati virtuosi e quanti invece mancano ancora l'appello? Tanto così per dare... Antonio, può essere più preciso sul comune siciliano che le interessa? Sì, Calatabiano si chiama. E adesso vediamo. Comune. Che è in provincia di Catania. Come dicevamo prima, e qua adesso dobbiamo andare proprio a pizzicare la località giusta. Allora, adesso controlliamo il comune. Intanto però possiamo dire... a parte il comune, la questione è chi vive all'estero, se ha delle proprietà in Italia, se ne deve interessare. No. Antonio, e poi... purtroppo seconda abitazione. Ecco, anche perché seconda abitazione c'è sempre la voce di Mion che suggerisce. Ci dica. Nulla, in questo caso quello che esprimevo precedentemente viene meno, perché parlavo della questione dell'abitazione principale. Nel caso del signore è una seconda abitazione, bisogna vedere se viene, perché è residente in Svizzera questo signore, quindi di fatto andrà a pagare la TASI a seconda di quello che, non ho compreso bene il nominativo del comune, il signore Calatabiano, provincia di Catania. No, dicevo che non ha deliberato. Ah, ancora. Ecco, Cristiano ci faceva un cenno. No, tanto per capire anche stamattina... Come... questo, anche noi stessi tecnici quotidianamente impegnati alle verifiche non soltanto delle mutazioni della normativa, ma anche di una situazione assolutamente liquida rispetto alle delibere, no? Con dei tempi che si allungano man mano per tutta una serie di motivazioni, non soltanto di tipo tecnico ma anche politico, perché poi ricordiamo che molti comuni sono in fase di rinnovo dei propri consigli, no? Sono oltre 4.000 alcuni. Il motivo per cui queste delibere non sono state prese, diciamocelo chiaramente. Anche queste, sì, alcune addirittura andranno al ballottaggio, quindi si insedieranno tra giugno e luglio questi consigli. Quindi chiaramente noi stessi tecnici quotidianamente impegnati siamo in una situazione di grande caos per essere puntuali, richiesta per richiesta. Guardi Mione, non è niente, mi faccio parlare a confronto del caos che la investirà nel pomeriggio, quando le girerò tutte le mail che ci sono arrivate questa mattina, alle quali non riusciamo a dare risposta in diretta. Va, ma l'ultima riusciamo a prenderla. Paola, che dice, non vedo dalla provincia di Modena. Buongiorno Paola, benvenuta. Telegrafica, la ringraziamo. Buongiorno, grazie di avermi chiamata, perché così ho la possibilità anch'io di dire la mia. Allora, io ho fatto in questi giorni il conteggio della TASI e in base all'aliquota comunale che ha deliberato il mio comune di Casi. Perché Modena ha deliberato, sì. Esatto, hanno deliberato, loro con l'aliquota più alta hanno deliberato, quindi con il 2,50 più la maggiorazione dello 0,80, quindi con una aliquota del 3,3%. Del tetto massimo. Esatto, sull'abitazione principale. Allora io mi faccio i conteggi, vedo che parlano anche di deduzioni, però visto che nelle deduzioni, a differenza dell'IMU... Dalla conclusione, Paola, che stiamo chiudendo? Sì, allora, conclusione che comunque io pago, confrontandomi con la Minimo, pago 10 volte la Minimo del 2013. Perfetto. Anche Cristiano stava facendo lo stesso calcolo, lo stesso ragionamento su Modena e è arrivata alla stessa conclusione. Può succedere soprattutto sulle case che hanno una rendita catastale bassa. Certo, grazie a Cristiano Dell'Oste, a Mirko Mione, noi Nicoletta torniamo. Naturalmente dopo il GR noi continuiamo a fare i conti ma con i chili. Cuore e denari. E allora siamo ritornate in diretta con una decisione molto repentina presa in due secondi. Sì, allora ci avete veramente inondato di messaggi, telefonate, richieste e allora con Deborah abbiamo pensato che anche se vi abbiamo stuzzicato un po' con la prova costume, che facciamo? Parliamo di Tasi, esatto. Quindi facciamo i conti con le tasse e domani faremo i conti con i chili. Mettiamola così, diamo ancora mezza giornata di tempo per perdere due etti e poi così domani siete un po' più in regola. Con noi, eccoci qua. E quindi abbiamo riacciuffato di nuovo Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti, che tanto era già stato tanto stuzzicato dai quesiti che hanno posto gli ascoltatori, perché già loro professionisti erano convinti che la situazione fosse complessa, ma poi dalle testimonianze si sono resi conto che è ancora più complessa di quello che pensavano. Mion, eccoci di nuovo a lei, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sì, effettivamente prendiamo atto degli stimoli che provengono dai contribuenti e da tutta una serie di elementi che a volte sfuggono anche dalle ipotesi che noi tecnici mettiamo a punto. Lei la prova costume, Mion, la fa già, è magro come un chiodo. È pronto, perché immagino con tutto questo lavoro non avrà tempo di mettere qualche chilo in più. Anzi, cosa mangia per affrontare questo periodo? Io cosa mangio? Diciamo che mangio normalmente, non ho questa, per fortuna, la questione della prova costume, perché io sono come ho partecipato anche da uditore alla vostra trasmissione sul running, sono un maratoneta e un corridore delle montagne, quindi il mio peso non supera mai la soglia. E questo, diciamo, chi corre resta in equilibrio, rimane lucido anche a livello mentale, per questo che Mio riesce a fare tutti questi conti. Deborah correre anch'io. È incredibile. No, tra l'altro volevo anche segnalare per gli ascoltatori che fossero curiosi di questa attività, quella del geometro fiscale, e hanno un sito molto molto vivace, molto ben fatto, per cui andate a vederlo. E tra l'altro lì so che Mion proprio in questi giorni ha messo un test per chi fosse appassionato. Abbiamo inserito il test sulla riforma del catasto. Esatto, diciamo che l'abbiamo battezzata come l'ho battezzata, una manifestazione d'opinione, non essendo un sondaggio con finalità scientifiche, però all'intento, attraverso tre domande molto semplici, con risposta chiusa sì o no, di mettere in evidenza quelle che sono le opportunità proprio che saranno messe a disposizione del contribuente dalla riforma del catasto. Abbiamo avuto modo di affrontare il calcolo della Tasi precedentemente, costruendo proprio la base imponibile partendo dalla rendita. La rendita è quella matrice che oggi fa disperare tutto il mondo della fiscalità immobiliare, perché rende sperequata l'applicazione dell'IMU ieri e della Tasi oggi. Certo, ci mancava anche adesso che rimettessero mano, Mion, mi faccia parlare. Ci mancava anche che adesso rimettessero mano alle rendite catastali con la revisione del catasto, per poi ulteriormente complicare il calcolo della Tasi. L'importante è che la facciano fra qualche mese, la riforma del catasto. Voi intanto sollecitate le opinioni appunto sul vostro sito. Tornerei ai quesiti sulla Tasi, siccome ne abbiamo tantissimi, andiamo a sceglierne qualcuno. Scegli quello che ti piace, Deborah. Allora, al 349-238-6666, no, magari Mion, fra tutti i casi che abbiamo affrontato nella prima ora del nostro programma, quali magari molto significativi abbiamo lasciato fuori? Dobbiamo ridefinire anche il perimetro di applicazione della Tasi sull'abitazione principale riferito alle pertinenze, che anche qui non potranno superare, come per l'IMU, le tre pertinenze, e un C1, un C2, un C6, quindi potrà esserci una soffitta, un garage o una tettoia. Se ne abbiamo una in più, nel senso che abbiamo due garage, ad esempio, uno dei due dovrà essere assoggettato non come abitazione principale, quindi non soltanto avremo una regolamentazione diversa da un punto di vista del calcolo dell'imposta, ma anche, come abbiamo visto, e sicuramente avremo più chiarezza a partire da venerdì, con le date di scadenza che chiameranno la cassa lo stesso contribuente, che nella realtà immagina, come dovrebbe essere, di avere un agglomerato urbano unico, ma così non è. Questo è ad esempio uno dei casi. Gli altri casi sono quelli dei fabbricati storici, che anche qui, come diceva prima Cristiano Dell'Oste, certo, riferito a quell'ascoltatore che chiamava riferendosi al proprio immobile. No, non si ricordi il nome, perché sennò ci fa fare brutta figura. Se non c'è un'assimilazione andrà a pagare il 100%, perché sulla TASI non è previsto questo tipo di agevolazione, certo, di abbattimento del 50%. Poi secondo sono me una serie di elementi, esatto, che avranno necessità di chiarimento. Dopo andiamo a spiegare bene anche le ipotetiche detrazioni che ogni sindaco potrà garantire ai propri cittadini. Andiamo però adesso... abbiamo ripescato anche gli ascoltatori all'800240024, che hanno tempo ancora almeno una decina di minuti abbondante. Perfetto. Per saltare la barriera rosa, come ha fatto Roberto, che ci chiama da Parma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Io sono particolarmente preoccupato per il tipo di rapporto che non ho chiarificato tra locatore e locatario. Io sono un piccolo proprietario, vivo praticamente di affitti. Il turnover negli appartamenti è ormai altissimo, di conseguenza mi è capitato per due appartamenti a marzo di avviare delle disdette. So che una parte dei servizi indivisibili dei comuni, sì, è dovuta dagli inquilini. E come si fanno a recuperare questi inquilini? Quindi ha avuto delle disdette, Roberto, abitano ancora lì, le hanno detto fra tre mesi andiamo via? No, io ho proprio un appartamento che è stato liberato ad aprile, non so dove sia andato a finire. Ma lei si vuole imbarcare anche di nuovo nell'andare a rivendicare dai suoi vecchi abitanti di questa casa la richiesta di questa, come dire, quota di TASI, Roberto? Avevamo calcalcolata quella di Pippo, erano circa 12 euro, infatti. Forse spende più di telefono. Ho avuto la fortuna di seguire la prima parte del programma, però è un tipo di rapporto che mi inquieta, perché oltretutto io ho anche due appartamenti dove dovrò chiedere lo sfratto, perciò è il proprietario che si farà carico comunque di questo tipo. C'è una quota parte, che devono pagare anche gli inquilini, l'abbiamo spiegato prima. Magari Mion, ribadiamo un po' le percentuali rispetto a quello che deve pagare un proprietario, ma soprattutto per casi così complessi, per chi ha rapporti conflittuali con chi occupa le case, per chi ha dato le disdette, addirittura si deve andare secondo lei a ricercare chi occupava l'abitazione per pagare queste piccole quote. Insomma, qualche suggerimento concreto per Roberto? Diciamo che c'è una risposta che è abbastanza chiara. Laddove ci sono dei periodi di affitto inferiori ai 6 mesi, l'affittuario non sarà tenuto al pagamento della sua quota, che sia dal 10 o dal 30%. Questo limite non lo conoscevamo, quindi... Proprio per agevolare tutti quegli affitti temporanei legati alle case, certo, vacanze o alle case studenti, come mi pare abbia messo in evidenza l'ascoltatore. Incidiamo sulla pietra questa indicazione. Allora, se una casa è stata occupata per un periodo inferiore ai 6 mesi, chi ha occupato questa casa pagando l'affitto non deve pagare la sua quota parte di TASI al proprietario. Esatto. Eccolo qua, perfetto. Negli altri casi? E negli altri casi bisognerà di nuovo accedere alla delibera comunale, andare a verificare la quota dal 10 al 30%, in questo caso effettuare il calcolo e effettuare il pagamento se si trova al di sopra i 12 euro o eventualmente se il comune dovesse deliberare una quota minima diversa, dovremmo andare a vedere la quota minima deliberata. Lei quando parla di questi 6 mesi, Mion, si riferisce a 6 mesi del 2014 o avendo occupato una casa comunque 6 mesi? Diciamo che la competenza è dell'imposta è quella del 2014, quindi del 2014. Qui ci sono legate alla quota a carico dell'affittuario una serie di questioni che sicuramente, come dicevo, dovranno essere dipanate, ci dovrà essere l'intervento del legislatore per andare a con delle circolari, certo, che sicuramente complicherà ulteriormente. Sa che le dico, Mion, che io preferisco fare la prova costume, vedere le mie ciccette sulle cosce piuttosto che andare a pagare questa TASI, ma guarda un po', piuttosto che calcolarla. Dove andiamo adesso? Andiamo a Bari con Piero, che ci chiama all'800240024. Buongiorno Piero. Buongiorno Nico. La prova costume la facciamo domani. Nico, hai sentito com'è affettuosa? Mi piace. Io, tutti gli amici mi chiamano Nico o Nicola a casa mia, perché la mia mamma voleva un maschio e mi ha sempre chiamato Nicola. Ma dai. Che trovo che sia un nome bellissimo anche da stupendo, donna. Quindi certo, chiamatemi come volete. Grazie Piero, mi dica. Senta, io ho una casa cointestata, una seconda casa cointestata con mia figlia. Sì. È libera da 4 anni, completamente vuota, non si affitta per problemi di inagibilità. Volevo sapere se devo, se sono tenuto a pagare la TASI. Piero. Corrisponde alla vecchia TASI. Certo. Caro Piero, temo di doverle dare una risposta che non le piacerà molto. Mion. Deborah ormai è diventata bravissima. No, guardi. Nell'inquadrare le questioni. Effettivamente non piacerà perché il presupposto è quello della proprietà e quindi essendo proprietario per il 50% dovrà andare a pagare IMU più TASI come seconda abitazione. Quindi il fatto di non essere dell'IMU più TASI non superiore al 10,4 per mille, laddove il comune abbia delivorato la cosiddetta, come ho avuto modo di dire, inizio trasmissione super TASI, non potrà raggiungere l'11,6 per mille. Ah, tra l'altro non abbiamo dato forse mai dall'inizio della trasmissione in termini di quanto deve pagarsi la percentuale, no? La rata si divide comunque in due. A parte chi la sua abitazione principale, se il comune non ha deliberato e paghiamo tutto a dicembre, paghiamo tutto, ormai ripeto tutto. Diventa una filastrocca. Esatto, però se no è suddivisa 50-50, giusto Mion? Esattamente, e adesso vedremo la scadenza, in questo caso della seconda abitazione, presumibilmente a seconda di quanto dice questa nota del MEF dell'altro ieri, se la scadenza fosse il presumibile 16 di settembre andrà a pagare il 50% e il 50% saldo. Mm-hmm. Allora, chi è adesso? Adesso abbiamo un'altra ascoltatrice che allarga un po' il campo d'azione, dalle abitazioni principali o alle seconde case, andiamo invece ad piccole attività industriali. Elide da Pordenone, buongiorno. Buongiorno. Allora... Sa che è un nome molto diffuso nelle Marche, quel suo? Vabbè, anche le persone che hanno una certa età nel pordenonese. No, vabbè, ma stiamo cercando un po' di stemperare questa mattina la tensione, attenzione sul tema TASI che veramente ci ha appesantito non poco. Ci dica. Ma noi siamo appesantiti da tutto quello che succede. Perché mi ritorna un ritorno di voce? È colpa di Carmelo Lauricella, Elide. Garantito, guardi. E le prende se la vede anche con noi. Provi ad abbassare la radio, non so, c'è la vicina. No, l'ho spenta la radio, sono in macchina, sto lavorando, nonostante l'ora continuo, perché fortunatamente faccio parte delle piccole aziende del nord-est e c'è qualcuno che ancora lavora e ha voglia di lavorare. Evviva. Anzi, io sto assumendo. Senta, la domanda mia è questa, io ho un capannone in leasing, sì, che non è mio, io pago regolarmente le rate, però quando devo pagare le tasse il capannone è mio. Come mi devo regolare? Certo. E come facciamo noi imprenditori del nord-est che tutti hanno la volontà di chiudere, vogliono chiudere. Anche chi ha un po' di lavoro ha deciso di chiudere, non se ne può più. Elide, tenga duro, mi raccomando, soprattutto se sta assumendo. Sia un po' proprio come un ariete, cerchi di combattere sul territorio. Là ci avete la CGA di Mestre che ogni volta fa dei monitoraggi su qual è il carico fiscale sugli imprenditori. Mion, allora, capannone industriale, non di proprietà, ma in leasing. In questo caso non piacerà l'ascoltatrice. Deve pagare. Questa era nella formulazione della normativa IMU, che il soggetto che dovrà andare a pagare la TASI prima dell'IMU nel caso di contratto di leasing è il locatario e quindi colui che di fatto poi conduce, il conduttore che conduce l'immobile strumentale. Ha ragione un po' Elide che si sente scoraggiata in questo momento. Beh, anche diciamo che la formulazione del contratto di leasing realisticamente è una formulazione di un affitto di tipo finanziario, di fatto insomma con il presupposto di una conclusione della locazione, della possibilità del riscatto e di vederne proprietari, effettivamente a rigor di logica insomma il legislatore non è che abbia commesso poi così un errore madornale. Benissimo. E a proposito di proprietari, c'è chi compra una casa che è proprietario di un capannone, di un garage. Questa secondo me Mion non la sa perché non è possibile. Bruno, buongiorno, da Roma. Signore, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, il mio quesito è questo. A febbraio di quest'anno ho comprato una chiesa sconsacrata. No, Bruno, intanto ci dica come le è venuto in mente. Primo, Bruno. E secondo, che cosa ci vuole fare adesso? Perché è una bellissima chiesa del 1600 nelle campagne orvietane ed è a 300 metri da casa del mio amico e sono 8 anni che ci sto presso. Da chi ha comprato, Bruno, tra l'altro? Chi è stato il suo venditore? Dato la parrocchia, la chiesa, il Vaticano, chi è stato? La Curia. Ah, ecco, la Curia, certo. Senta Bruno, ci manda le foto? Così le guardiamo noi, anche noi sogniamo di questa bella chiesa. Sì, se vuole può andare sul sito, le vuole, le dico la chiesa, il nome della chiesa. Sì, ce la dica. Perché anche Mione adesso va a guardare e fa subito due calcoli. Vedere. Ecco. La chiesa di San Matteo a Cottano. Perfetto. Ah, senta, San visto Matteo, che quella sfacciataggine non ha fine, ci dice anche quanto ha speso Bruno? Le hanno fatto un buon prezzo? Ha negoziato a lungo? Oppure, insomma, è stata un'occasione che non si è lasciato scappare, pur mettendoci qualcosina in più, la voleva a tutti i costi? Assolutamente sì, consideri che sono 8 anni che ci sto presso, quindi insomma è stata dura, ma non tanto per la Curia ma quanto per le belle arti, è stato un pochettino difficile per il comune. Perfetto. Va bene, quindi la domanda che si fa Bruno è: la chiesa sconsacrata l'ho comperato, ho realizzato il mio sogno, ma adesso dovrò pagare qualcosa in più. Adesso Bruno, che cosa, qual è il suo quesito? E il quesito mio è che cosa, se devo pagare qualcosa, TASI, IMU, non lo so che cosa. Caro Mione, qua la voglio. Ma intanto bisognerebbe identificare bene che destinazione d'uso ha questo immobile. Non è più adibito al culto, perché dice l'ascoltatore che è stata sconsacrata. Bruno, questo ce lo e conferma lei. Di fatto non rientra né nell'IMU né nella TASI, nelle esenzioni previste per i luoghi di culto. Ecco, ricordiamo anche che nella nuova formulazione dell'IMU anche i luoghi di culto vanno ben suddivisi da quelle attività all'interno delle stesse aree che svolgono attività commerciali e che vanno imposte ad IMU. Quindi teoricamente adesso Bruno deve pagare tutto. Che questo immobile sia soggetto al pagamento della TASI e dell'IMU. Grazie Bruno, magari ci scriva, ci dia qualche dettaglio in più, le faremo una risposta un po' più articolata. Grazie anche a Mirko Mion. Domani però attenti, perché facciamo i conti con i chili in più. Prova costume.